questo attacco raid israeliano a Damasco, nel palazzo che è adiacente a quello dell'ambasciata iraniana in Siria, che poi ospita gli uffici del consolato, ha ucciso tra l'altro delle figure importanti dei pasdaran iraniani, delle milizie al-Quds in particolare, come il comandante Mohammad Reza Zahedi e il suo vice Mohammad Hadi Haji Raimi. Quindi evidentemente si tratta di un attacco mirato da parte di Israele contro il ruolo iraniano che ha in Siria. Ricordiamo che c'è un rapporto diretto molto forte tra la guida suprema iraniana Ali Khamenei e il presidente siriano Bashar al-Assad. Se Bashar al-Assad è ancora al potere in Siria, lo deve soprattutto al sostegno che ha avuto da parte delle autorità iraniane. Questo attacco è avvenuto nel quartiere di Mezze a Damasco e evidentemente è stato particolarmente significativo, perché la reazione dell'ambasciatore iraniano in Siria, Hossein Akbari, è stata molto forte. Ha parlato degli F-35 che hanno colpito brutalmente anche la sua residenza, che si trova vicino al consolato. Quindi si tratta veramente di un attacco su larga scala molto significativo, che poi ha colpito una figura centrale, perché ricordiamo nel 2020 era stato ucciso da un drone degli Stati Uniti Qassem Soleimani nella città di Baghdad da parte degli Stati Uniti, perché in quel caso quell'attacco era stato voluto da Trump. Ora in questo caso Zahedi, 63 anni, un'altra figura importante delle milizie al-Quds. In generale si può dire che con questo attacco e con gli attacchi precedenti, perché ce n'è stato un altro molto significativo lo scorso venerdì in cui sono morte 53 persone, 38 soldati siriani e anche sostenitori, membri del gruppo Hezbollah, cioè del partito sciita libanese, evidentemente in questo modo si vogliono colpire i legami che ci sono tra Iran e i paesi vicini, in particolare la Siria come abbiamo visto, ma anche il movimento sciita libanese Hezbollah, perché anche in questo caso ci sono dei diretti legami con Teheran. Ovviamente tutta questa escalation è legata al ruolo che l'Iran ha avuto nel conflitto a Gaza. Ricordiamo questo attacco del 28 gennaio scorso in Giordania, in cui sono stati uccisi 3 soldati statunitensi contro la base Torre 22 degli Stati Uniti. Questo ha portato ad un'escalation di attacchi da parte degli Stati Uniti e Israele che hanno colpito gli interessi iraniani nella regione. Il motivo di questi attacchi è voler contenere l'Iran. È come se a questo punto il ruolo regionale iraniano in Siria, in Iraq, ma anche si può dire Yemen, perché anche le milizie Houthi sono molto attive in Mar Rosso, l'abbiamo visto nelle settimane scorse con i blocchi nel Mar Rosso e quello che hanno causato al traffico commerciale delle grandi navi. E non solo, pensiamo al ruolo che l'Iran ha in Afghanistan, pensiamo anche al sostegno ideologico che la rivoluzione iraniana dà a Hamas in questo contesto di conflitto. Evidentemente questi attacchi mirano sempre a contenere questo ruolo iraniano. Questo vuol dire che non può sempre essere dietro l'angolo un'escalation del conflitto a Gaza. Finora non è stato così, nel senso che questi attacchi sono stati attacchi limitati, contenuti, si sono limitati a scaramucce, anche attacchi al confine tra Israele e Libano che non hanno portato ad una guerra aperta, però evidentemente ognuno di questi attacchi potenzialmente può determinare un'estensione del conflitto. Vedremo se questo attacco porterà ad una forte risposta da parte iraniana, come è stato annunciato dalle autorità iraniane, però ricordiamo che già nei mesi scorsi, il 2 gennaio, era stato ucciso il leader di Hamas a Beirut, Saleh al-Arouri, pochi giorni dopo era stato ucciso il comandante di Hezbollah, Wissam Hassan al-Thawi, e questi attacchi non hanno portato ad un'escalation del conflitto. La stessa cosa potrebbe succedere in questo caso, però evidentemente il clima di tensione che va avanti dopo il 7 ottobre sta esacerbando gli animi, sta portando sempre di più il conflitto a estendersi nei paesi vicini. Gli iraniani hanno chiamato in causa direttamente gli Stati Uniti in questo attacco. In realtà appunto sappiamo che i rapporti tra Biden e Netanyahu non sono buoni ultimamente, soprattutto per il conflitto a Gaza, ma nei confronti dell'Iran è diverso? No, sicuramente i rapporti tra Biden e l'Iran potevano essere migliori rispetto a quelli di Trump. Ricordiamo che nel 2018 Trump aveva deciso il ritiro unilaterale dall'accordo sul nucleare con l'Iran, mentre Biden, quando è arrivato al potere, aveva pensato di riportare il dialogo con l'Iran. Però dal 7 ottobre in poi, qualsiasi tentativo di accordo, ma già si può dire che questo era avvenuto con la guerra in Ucraina, perché ricordiamo che l'Iran ha fornito droni a Mosca che sono stati utilizzati nella guerra in Ucraina. Già da quel momento qualsiasi tipo di riavvicinamento, di accordo, di distensione con l'Iran era saltato. Ancora di più dopo il 7 ottobre, quando l'Iran è stato accusato di aver ispirato ideologicamente e anche aiutato dato e fornito munizioni ad Hamas. Evidentemente poi questo bisogna andare a scandagliare se è vero oppure no, perché in alcuni casi questi gruppi, pensiamo ad Hezbollah, pensiamo ad Hamas, pensiamo anche alla Siria di Bashar al-Assad, hanno più un legame ideologico che non pratico con le guardie rivoluzionarie iraniane. E ricordiamo poi il gravissimo attentato che ha subito l'Iran a Kerman il 3 gennaio scorso, dove sono morte quasi 100 persone. In quel caso si è trattato di un attacco rivendicato da ISIS, che è stato molto significativo non solo per il numero di vittime, ma anche per il fatto che sono stati colpiti i sostenitori del regime degli Ayatollah. Quindi è evidente che i rapporti continuano ad essere molto tesi, però nessuno degli attori di questo conflitto vuole arrivare ad un conflitto diretto, ad un conflitto aperto. Quindi anche questo attacco rientra nella guerra per procura che è in corso in Siria, dove Stati Uniti e Israele colpiscono gli interessi iraniani senza attaccare direttamente sul suolo iraniano, evidentemente perché l'Iran ha un ruolo centrale in questo paese, in particolare ha aperto due grandi basi alla periferia di Aleppo e alla periferia di Damasco. La stessa cosa si può dire in Iraq, dove il ruolo iraniano è fondamentale, quindi quando gli Stati Uniti rispondono, hanno risposto con per esempio tra febbraio e marzo 85 raid che hanno colpito direttamente gli interessi iraniani a Baghdad, lo fanno per contenere il ruolo che l'Iran si è ritagliato in questo paese, senza però arrivare mai ad una spirale del conflitto. La stessa cosa con gli Houthi. Gli Stati Uniti hanno parlato moltissimo del fatto che gli attacchi Houthi erano molto pericolosi e sono molto pericolosi per il commercio marittimo nel Mar Rosso, però dall'altra parte non hanno neppure inserito gli Houthi nei gruppi terroristici globali, ma soltanto nei gruppi che sostengono il terrorismo, anche perché in Yemen è in corso una guerra da anni e quindi è necessario che arrivino aiuti a Sana'a. Quindi è evidente che questo scontro continua ad essere uno scontro a bassa intensità e gli Stati Uniti stessi non hanno nessun interesse perché questo scontro venga si allarghi e venga esacerbato da questi attacchi mirati, però è evidente che le cose peggiorano sempre di più proprio perché non si arriva ad un cessato il fuoco per il conflitto a Gaza. Questo dovrebbe essere l'obiettivo della politica estera degli Stati Uniti in Medio Oriente ora, veramente chiudere la pagina della guerra a Gaza che ha portato al genocidio in un contesto di apartheid, in un contesto di pulizia etnica, perché questo conflitto sta facendo scaldare gli animi a tutti i miliziani sciiti o che ideologicamente si rifanno alla rivoluzione islamica, che però fino a questo momento si sono contenuti perché sanno bene che se dovessero esserci degli attacchi su larga scala la guerra potrebbe estendersi.